Qualcuno entrava in cucina. Qualcuno gridò: Corpo di mille bombe! Senza il mio permesso, nessuno deve entrare in cucina. Oh, pardon, Altezza. Mi drizzai. Il mio pingue cuoco mi stava davanti. Una sguattera spaurita aprì le finestre e fece entrare la grigia luce del mattino. D'improvviso cominciai a tremare per il freddo. Altezza, una tazza di cioccolata, mi propose il cuoco. Scossi il capo. Mi sorresse qualcuno quando mi alzai in piedi. Villat, il mio prigioniero di guerra. Andate nelle vostre camere, signori miei. Troverete tutto come l'avete lasciato. Consigliai ai due eroi. Poi chiesi uno strofinaccio per la polvere. La piccola sguattera mi guardò, tentennando il capo. Non sapete che cosa sia uno strofinaccio? La povera ragazza fece un inchino, spaurita, e mi portò un candido tovagliolo. Così dunque si immagina la mia sguattera lo strofinaccio di una principessa ereditaria. Presi il tovagliolo e andai nella camera di Giambattista, quando l'hanno spolverata l'ultima volta. Passai il tovagliolo sulla lastra dello specchio e provai un senso di sgomento perché la stanza appariva così disabitata. Giambattista si è fatto mandare da un pezzo a Stoccolma tutti i libri, i ritratti, i busti che gli sono cari. Non c'è più nulla in questa camera che gli stia a cuore. Aprii le finestre per dare aria. Il mio giardino era ancora come ieri, un giorno come tutti gli altri, pensai. Eppure i russi, i prussiani, gli austriaci passeranno il Reno. I russi, i prussiani, gli austriaci e gli svedesi. Non stare così in vestaglia davanti alla finestra aperta. Va subito in camera tua, ti prenderai un'infreddatura, disse Maria. Che diavolo stai facendo qui? Preparo la camera per Giambattista. La Francia è stata battuta, le truppe alleate marciano su Parigi, Giambattista torna a casa, Maria. E non si vergogna, le sfuggì detto fra i denti a voce bassissima. Ma io l'udii, il mio cavaliere, il mio povero, solitario cavaliere. Parigi, ultimi di marzo 1814. Dal fornaio dicono che i cosacchi violentano tutte le donne, anche le vecchie, annunciò Maria eccitata. Specialmente le vecchie, affermai io. E Eugenia, non prenderti gioco di me. Ma no, i cosacchi credono che le donne vecchie portino fortuna. Oh, è assurdo. Continuai a burlarla. Tu dovresti saperlo, Maria. Allora si arrabbiò. Chi te lo ha detto? Villat. Ella aggrottò la fronte. Non potresti domandarlo al conte svedese, se è vero? Alla fin fine è alleato dei cosacchi, lui lo saprà. Non posso domandarglielo. Maria. Una principessa ereditaria non deve sapere che cosa significa viol. In quel momento udimmo per la prima volta il rombo lontano. Un temporale di marzo? Disse Maria stupita. Ci guardammo in viso. Il rombo si ripeté. Sono i cannoni davanti alla città, bisbigliai io. Questo succedeva 2 giorni fa. Da quel momento i cannoni davanti a Parigi non hanno più taciuto. In questi ultimi giorni ci avevano detto tante volte che le truppe dell'imperatore d'Austria sarebbero da un momento all'altro comparse davanti a Parigi e che i cosacchi vogliono prendere d'assalto la città e mettere a ferro e fuoco tutte le case che i prussiani hanno assaltato la città e hanno già passato il Reno e da alcune settimane al grido di Nach Paris, Nach Paris, a Parigi, a Parigi. Naturalmente Napoleone cerca di fermare gli alleati. Qui a Parigi si hanno notizie di battaglie, il Moniteur non fa che annunciare vittorie un po' qua, un po' là, ma noi non leggiamo più il Moniteur. Adesso tuonano i cannoni davanti a Parigi, cannoni nostri, austriaci, prussiani, russi. Le mie giornate sono colme d'attese in ogni minuto. Non so più dove si trovi Giambattista, so soltanto che verrà questa notte, domani notte. La sua camera è pronta. Da molto tempo non ricevo più lettere, né da lui né da Oscar. Tra noi si trovano la Francia e la Germania, il suolo sconvolto di un solo immenso campo di battaglia. Da qualcuno abbiamo saputo che dopo la battaglia di Lipsia Giambattista si è rifiutato di inseguire le truppe francesi oltre il Reno, un netto rifiuto, che di tutte le truppe ha trattenuto con sé soltanto i suoi 30.000 svedesi e che con questi si è diretto verso nord. Che è passato da Hannover, dove probabilmente ha rinfrescato molti ricordi. Ci sono anch'io fra i tuoi ricordi, Giambattista. E e Monsieur Beethoven e la speranza distrutta. Il cancelliere Wetterstedt lo accompagna con lo stato maggiore svedese e tutti cercano di fargli intendere che gli alleati aspettano e chiedono una sola cosa da lui, il passaggio del Reno. E Giambattista detta una lettera allo zar e chiede che siano rispettate le frontiere della Francia. La Francia non è Napoleone e Napoleone è battuto. I prussiani, i russi, gli austriaci avanzano in Francia. Giambattista intanto fa la sua guerra per conto suo. Le cannonate si avvicinano. Marmont potrà tenere Parigi. Il corpo d'armata di Marmont difenderà la città. Marmont una volta mi voleva sposare. Che cosa disse di lui Napoleone allora a Marsiglia? Marmont è intelligente, vuol far carriera con me. No, Marmont non terrà Parigi. Almeno non per Napoleone. Giambattista con i suoi svedesi marcia contro la Danimarca. Napoleone nel settembre ha costretto i danesi a dichiarare guerra alla Svezia. A malincuore, molto a malincuore, i danesi vi si sono decisi, ma il loro re Federico VI ha mantenuto ostinatamente la sua alleanza con la Francia. Le vetrate tintinnano, i cannoni sono molto vicini. Scriviamo ancora, non pensiamo a Giambattista. Giambattista fa la sua guerra privata e avanza nello Schleswig. Combatte quasi a passo di parata. Da Kiel manda un ultimatum al re di Danimarca. Giambattista chiede la cessione della Norvegia alla Svezia e offre come indennizzo 1 milione di talleri. Da Kiel ci è giunto un biglietto spedito di contrabbando al conte Rosen. La Danimarca ha ceduto alla Norvegia, ad eccezione della Groenlandia, delle isole Faroe e dell'Islanda. Il re danese ha invece sdegnosamente rifiutato il 1 milione di talleri. I norvegesi non devono essere venduti. Principessa ereditaria di Svezia e Norvegia, mi disse allora pensieroso il conte Rosen. Presi una carta geografica e guardai la Norvegia. E la Groenlandia? Domandai poi. Rosen accennò ad una grande macchia bianca sulla carta. Nient'altro che neve e ghiaccio, altezza. Oh, sono così contenta che i danesi si siano tenuti almeno la Groenlandia. Giambattista è capace di farmi abitare su di una macchia bianca della carta geografica. Ma io scrivo soltanto per sfuggire alla mia angoscia. Giambattista non è già più a Kiel. Giambattista si trova. Non so più dove si trovi. È scomparso. Scomparso da 3 settimane. Da ultimo ceduto alle insistenze degli alleati e ha marciato verso il Reno, ma non oltre il Reno, non oltre il Reno. Le sue ultime tracce sono a Liegi, nel Belgio. Là è salito in una carrozza da viaggio, probabilmente era con lui il conte Brahe, e da allora è scomparso. Nessuno sa che strade percorra. Molti affermano che Napoleone disperato gli ha chiesto segretamente aiuto e che lui ha litigato con lo zar, il quale non vuole riconoscere i confini del 1794. Intanto i giornali di Parigi scrivono che Giambattista è impazzito. Questi scribacchini affermano che il padre di Giambattista è morto demente, che anche suo fratello è mentecatto. E no, questo non lo voglio scrivere. Non ora che nessuno sa dove si aggiri Giambattista. E perché poi? Probabilmente è da parecchio tempo in Francia, forse viaggia per le strade che i russi e i prussiani hanno dovuto conquistare, miglio a miglio. Forse vede il terreno sconvolto e le case distrutte. 2 biglietti mi sono giunti da Liegi. Il ciambellano conte Löwenstein mi domanda se so dove precisamente si trovi Giambattista. Non lo so, signor ciambellano, ma posso immaginarmelo. È tornato in patria, nella sua patria, e vi trova un cumulo di macerie. E dovrebbe indossare l'uniforme di gala e avanzare come un vincitore. Non posso rispondere alla vostra domanda, signor ciambellano, vogliate avere pazienza. Anche Sua Altezza non è che un uomo. Lasciatelo solo in questi oscuri giorni e in queste notti buie. Ieri, 29 marzo, alle 6:30 del mattino, Maria entrò in camera mia. Devi andare subito alle Tuilerie. La guardai incredula. Alle Tuilerie? Re Giuseppe ha mandato una carrozza. Devi andare subito da Giulia. Mi alzai e mi vestii in fretta. Giuseppe è comandante supremo di Parigi e cerca di tenere la città. Giulia rispetta il suo divieto e così non ci siamo viste da più mesi. E adesso improvvisamente questa chiamata. Tremante per il freddo passai per le strade deserte. Degli spazzini scopavano e ammucchiavano dei proclami stampati a grossi caratteri. Il lacchè saltò giù di cassetta e ne raccattò uno nel rigagnolo. Parigini, arrendetevi! Imitate i vostri fratelli di Bordeaux. Chiamate al trono Luigi XVIII. Assicuratevi la pace. Firmati dal principe Schwarzenberg, il comandante supremo austriaco. Quando la nostra vettura entrò nella corte delle Tuilerie, vidi una fila di carrozze come per una festa. Proprio davanti al portale d'ingresso erano ferme 10 carrozze di corte con lo stemma imperiale. Vetture da viaggio e carri da trasporto riempivano il cortile. Senza posa i lacchè trascinavano fino ai carri pesanti casse di ferro, i gioielli della corona, i tesori della famiglia imperiale, pensai. E forzieri, molti forzieri. Le sentinelle osservavano indifferenti il trasporto di quei forzieri. Con mia sorpresa venni condotta nell'appartamento privato dell'imperatrice. Quando entrai nel salotto grande, il mio cuore cessò un momento di battere. Napoleone? No, no, soltanto Giuseppe, che in quell'ora cercava disperatamente di rassomigliare a suo fratello. Giuseppe era in piedi davanti al camino, con le mani intrecciate dietro la schiena, e parlava in fretta, con la testa buttata all'indietro. L'imperatrice, che adesso viene chiamata la reggente, perché Napoleone le ha trasferito per il tempo della sua assenza i più ampi poteri di governo, era seduta su di un divano accanto a Madame Letizia. Madame Letizia si era buttato uno scialle di lana sulle spalle, come una contadina, mentre l'imperatrice indossava un mantello da viaggio e si era messa in capo un cappello. Maria Luisa faceva l'effetto di un invitato che abbia avuto appena il tempo di sedersi. Notai Meneval, ora segretario della reggente, e alcuni membri del Senato. Dietro a Madame Letizia, alto, snello, in un uniforme impeccabile, re Gerolamo di Vestfalia, il vorace fanciullo di una volta. Da un pezzo gli alleati gli hanno portato via tutto il regno. La stanza era rischiarata da molte candele, i loro bagliori si mescolavano alla grigia luce del mattino, tutta la scena appariva così irreale. Qui, ecco, qui sta scritto a chiare note, disse in quel punto Giuseppe, traendo una lettera dalla tasca interna della giubba. Reims, 16 marzo 1814. Secondo le mie istruzioni verbali, eccetera, eccetera, ecco, non abbandonare mio figlio, ricordati che vorrei piuttosto saperlo nella Senna che nelle mani dei nemici della Francia. La sorte di Astianate, prigioniero dei Greci, mi è sempre sembrata la più infelice della storia. Il tuo affezionato fratello, Napoleone. Questa lettera l'hai già letta ieri al Consiglio di Stato. Già siamo informati di quello che pensa Napoleone del destino di Astianate. Quali possibilità hai tu di impedire che il bambino cada nella Senna oppure nelle mani del nemico? Domandò Gerolamo. Da quando è stato in America parla di proposito, adagio e con voce lievemente nasale. Napoleone scrive? Giuseppe cavò di tasca un'altra lettera. Tenete duro davanti alle porte di Parigi. Appostate 2 cannoni a ciascuna delle porte e fatele custodire dalla Guardia Nazionale. A ciascuna porta dovranno esservi 50 uomini armati di fucili e carabine da caccia e 100 uomini armati di lancia. In tutto dunque 150 uomini per porta, come se non sapessi contare. Scrive come se io fossi un idiota. E poi ogni giorno dovrà essere costituita una riserva di 3.000 uomini armati di fucili, carabine e lance, che possa recarsi dovunque sia richiesta, con le batterie della Guardia Nazionale o della Scuola di Guerra. Il tuo affezionato fratello Napoleone. È molto chiaro. E tu hai eseguito questi ordini, Giuseppe? Domandò calma Madame Letizia. Ma qui sta il punto, non posso eseguirli. Non abbiamo più né fucili né carabine. Il vecchio colonnello delle mutande al deposito non riesce più a scovarne e la guardia si rifiuta di marciare contro un esercito moderno armata di vecchie lance da museo. Si rifiuta? Gridò Gerolamo indignato. Forse che tu sapresti difendere una città con le lance contro i cannoni? Con le lance non saprei fare un bel niente e probabilmente neppure Napoleone. Sua maestà può far tutto quando si tratta di difendere la Francia, dichiarò appassionatamente Meneval. Seguì una pausa. E dunque, disse poi Maria Luisa, calma e assai indifferente, che cosa si decide? Devo partire, correre di Roma o restarmene qui? Madame, Gerolamo balzò dal suo posto oltre il divano e si piantò davanti a lei. «Madame, avete udito quel che hanno giurato gli ufficiali della guardia? Finché la reggente e il re di Roma resteranno a Parigi, Parigi non cadrà. La guardia farà sforzi sovrumani per proteggere le Tuilerie, alle Tuilerie la reggente e il figlio dell'imperatore. Pensate, una bella e giovane donna e un tenero bimbo sui gradini del trono imperiale di Francia». Ogni uomo capace di portare le armi vorrà fino all'ultima goccia del suo sangue. Gerolamo, lo interruppe Giuseppe, per gli uomini capaci di portare le armi non abbiamo che delle lance, nient'altro che lance. Ma la guardia è armata di tutto punto, Giuseppe. Poche centinaia di uomini. Tuttavia non voglio assumere da solo questa responsabilità. Capisco anch'io che la presenza della reggente inciterà all'estrema resistenza, non soltanto la guardia, ma anche il popolo di Parigi. E invece la partenza, la fuga, declamò Gerolamo, la fuga. Come vuoi, la fuga della reggente e del re di Roma influirebbero purtroppo sfavorevolmente sullo stato d'animo generale. Temo che Parigi allora non continuò. «E dunque?» domandò Maria Luisa. «Sono costretto a lasciar decidere all'imperatrice», disse Giuseppe affranto, e non rassomigliava più affatto a Napoleone. Era un uomo pingue e anziano, che si passava la mano smarrito fra i radi capelli. «Vorrei fare soltanto il mio dovere, non avere poi dei rimproveri», dichiarò Maria Luisa annoiata. Madame Letizia sussultò come sotto un colpo di sferza. Era questa dunque la moglie del suo Napoleone? «Madame, se lasciate adesso le Tuilerie perderete probabilmente ogni diritto alla corona imperiale di Francia. Voi e vostro figlio, madame», disse Gerolamo, insinuante. «Madame, lasciatevi difendere dalla guardia, affidatevi al popolo di Parigi». «Ah, allora si resta», disse Maria Luisa amabilmente e incominciò a sciogliere i nastri del suo cappello. «Madame, la lettera di sua maestà», gemette Giuseppe. «Napoleone preferirebbe sapere suo figlio nella Senna che...» «Non ripetete questa frase atroce!» mi sfuggì di bocca. Tutte le facce si rivolsero verso di me. Fu un momento penosissimo. Io ero ancora sempre sulla soglia. Mi inchinai in fretta verso l'imperatrice e mormorai: «Scusate, non volevo disturbare». «La principessa ereditaria di Svezia nel salotto della reggente? Madame, questa è una provocazione che non può essere tollerata», ruggì Gerolamo e si precipitò come un forsennato verso di me. «Gerolamo, sono stato io a pregare Sua Altezza Reale di venire qui perché Giulia», balbettò Giuseppe confuso e additò mia sorella. «Io seguì il suo sguardo e solo adesso scoprì Giulia. Era proprio in fondo alla sala, seduta su di un sofà con le sue figlie. Le tre gracili figure svanivano nella penombra. «Prego, accomodatevi, altezze», disse Maria Luisa cortese. In fretta riparai nel fondo della stanza e sedetti accanto a Giulia. Col braccio ella cingeva le spalle di Zenaide e serrava con le dita il braccio della piccina. «Non agitarti così, tu verrai da me con le tue bambine». Davanti al camino si teneva consiglio. A un tratto Giuseppe venne da noi. «Se la reggente dovesse andare a Rambouillet dovrai accompagnarla». «Ma tu sei il comandante supremo di Parigi», disse Giulia a bassa voce. «L'imperatore mi ha scritto che non debbo assolutamente abbandonare suo figlio», rispose Giuseppe con impeto. «Tutta la famiglia verrà con noi. Giulia, ti chiedo per l'ultima volta». Ma Giulia scosse il capo. Le lacrime le scorsero giù per le guance. «No, no, ho paura. Saremo sbalestrate da un castello all'altro e da ultimo ci prenderanno i cosacchi. Lasciami con Desiree, Giuseppe. La sua casa è sicura. Non è vero che la tua casa è sicura, Desiree?» Giuseppe ed io ci guardammo negli occhi. Fu uno sguardo assai lungo, nel quale ci dicemmo tutto ciò che non ci eravamo detti da quella sera in cui l'avevo conosciuto alla Maison Commune. «Anche voi potete stare in casa mia, cognato Giuseppe», mormorai alla fine. Egli scosse il capo e si sforzò di sorridere. «Chissà che non arrivi ancora Napoleone in tempo per tenere Parigi, e in tal caso tra pochi giorni tornerai da Giulia. Se non viene», mi baciò la mano, «vi ringrazio di quel che fate per Giulia e per le mie bambine. Grazie a voi e a vostro marito». In quel momento il ciambellano annunciò: «Il principe di Benevento chiede udienza». Guardammo Maria Luisa. Con un sorriso, la reggente si volse verso la porta. Fatelo entrare. Talleyrand ancheggiò in gran fretta verso l'imperatrice. La sua faccia appariva stanca e sciupata, ma i suoi capelli erano incipriati con cura. Indossava l'uniforme di gran dignitario dell'impero. Maestà, ho conferito col ministro della guerra. Abbiamo avuto notizie del maresciallo Marmont. Il maresciallo prega Vostra Maestà di lasciare immediatamente Parigi col re di Roma. Il maresciallo non sa per quanto tempo ancora potrà tenere la strada di Rambouillet. Sono desolato di essere il portatore di questa tremenda notizia. Si era fatto un profondo silenzio. Frusciavano soltanto i nastri di seta del cappello che Maria Luisa si riannodava di nuovo sotto il mento. Troverò Sua Maestà a Rambouillet, si informò lei. Sua Maestà è in viaggio per Fontainebleau. E di là verrà subito qui per difendere Parigi, disse Giuseppe. Ma io voglio dire Sua Maestà l'imperatore d'Austria, mio padre. Giuseppe divenne pallido perfino nelle labbra. Gerolamo serrò i denti. La vena sulla tempia si gonfiò. Solo Talleyrand sorrise caritatevole e per nulla sorpreso. Allora Madame Letizia afferrò bruscamente il braccio di sua nuora. Venite, Madame, venite. Sulla soglia Maria Luisa si voltò ancora indietro, il suo sguardo azzurro trascorse per il salotto, si fermò sulle tende bianche con le api ricamate, incontrò il sorriso di Talleyrand e si confuse. Purché poi non mi facciano dei rimproveri, sospirò mentre usciva. Come piangeva e urlava il bambino! Senza volerlo mi affacciai alla porta. Le due governanti, Madame de Montesquieu e Madame Boubet, cercavano di condurre giù il piccolo Napoleone, lo avevano vestito con una piccola uniforme di chasseur. Il bimbo dai capelli biondi di Maria Luisa e dal mento ostinato di suo padre si aggrappava disperatamente alla ringhiera della scala. Non voglio partire, non voglio! Gridava e dava calci negli stinchi delle governanti smarrite. Exit Napoleon II, mormorò Talleyrand al mio fianco. Anche il suo sguardo vagò meditabondo per la sala, anche i suoi occhi si fermarono sulle tende bianche dalle api tessute. Un bel disegno, peccato che presto si dovranno togliere quelle tende. Se si appendono rovesciate, le api capovolte hanno la figura dei gigli, è proprio dei gigli borbonici. Si portò l'occhialino davanti agli occhi, curioso, ma devo proprio congedarmi, Altezza. Nessuno vi trattiene, principe. Seguirete proprio l'imperatrice? Certamente, ma purtroppo fuori delle porte sarò fatto prigioniero dai russi, perciò devo essere puntuale. La pattuglia russa sta già aspettandomi. Arrivederci, Altezza. Forse il maresciallo Marmont vi libererà. Ve lo auguro, mormorai. Ah, devo disilludervi. Il maresciallo Marmont è in questo momento troppo occupato per farlo. Sta già trattando la resa di Parigi. Ma tenete questa notizia per voi, cara Altezza. Vogliamo evitare vani disordini e un inutile spargimento di sangue. Con quanta grazia si inchinò. Con quanta sicurezza se ne andò, zoppicando. Costui saprà far rigirare le tende al momento giusto. Alfine mi trovai con Giulia e le sue figlie nella mia carrozza. E tornai nella Rue d'Anjou. E per la prima volta da che Giulia era diventata regina, Maria le parlò. Maternamente le passò il braccio intorno alle esili spalle e la condusse su per le scale. Maria, la regina Giulia dormirà nella camera di Oscar. Le bambine avranno la stanza dell'ala flotte. L'ala flotte si stabilirà nella camera degli ospiti. E il generale Clary, il figlio del signor Stefano? Domandò Maria. Chi hai detto? Il generale è arrivato un'ora fa e vorrebbe abitare qui finché succederà qualche cosa, annunciò Maria. Invece di sistemare suo figlio nell'azienda di papà, Stefano lo ha mandato all'Accademia Militare e Mario, con l'aiuto di Dio e di Napoleone, è arrivato al grado di generale. L'aiutante prigioniero e l'aiutante alleato possono stare nella stessa camera, sentenziai, e il generale Clary potrà avere il letto di Villatte. E la contessa Tascher? Compresi questa domanda solo quando entrai nel salotto. Lì, Marcellina, la figlia di Stefano, la quale ha sposato un conte Tascher, mi si buttò tra le braccia. Zia, ho tanta paura in casa mia. Da un momento all'altro possono arrivare i cosacchi. Singhiozzò. E tuo marito? E al fronte, chissà dove. Mario ha pernottato in casa mia e abbiamo deciso di venire da te e per adesso di abitare. Le do la stanza degli ospiti e l'ala flotta si adatterà su di un divano nel mio spogliatoio, riflettei. Verso le 5 di sera i cannoni tacquero. Villatt e Rosen rincasarono da una passeggiata e annunciarono che Blücher aveva preso d'assalto Montmartre e che gli austriaci si trovavano a Ménilmontant. Gli alleati esigono la resa incondizionata. «E la governante delle mie bambine?» piagnucolò Giulia. «Devi darle una camera da sola, altrimenti si licenzierà. Chi dormirà nel letto di Giambattista?» «Non la tua governante», pensai io, furente, e fuggii. Mi rifugiai nella camera deserta di Giambattista, mi sedetti sul largo letto vuoto e stetti in ascolto nella notte. Parigi, 30 marzo 1814. Alle 2 di notte è stata firmata la capitolazione. Quando questa mattina guardai dalla finestra, vidi sventolare sopra il mio portone la bandiera svedese. L'aveva issata il conte Rosen con l'aiuto del cocchiere svedese. Una densa folla sta in attesa davanti a casa nostra. Il loro confuso mormorio sale fino alla mia finestra. Che cosa vuole questa gente? Si è sparsa la voce che arriva a Sua Altezza. E che cosa vogliono da Giambattista? Il mormorio cresceva e suonava minaccioso, e non domandai più nulla. Una carrozza si fermò davanti alla casa. Dei gendarmi respinsero la folla. Vidi scendere Ortensia col suo Napoleone di 9 anni e il suo Carlo Luigi Napoleone di 6 anni. Il mormorio della moltitudine cessò. Uno dei ragazzi accennò alla bandiera svedese e domandò qualche cosa, ma Ortensia sospinse in gran fretta i suoi maschietti in casa mia. Comparve l'ala flotte. La regina Ortensia domanda se i nipoti dell'imperatore potrebbero dimorare provvisoriamente sotto la protezione di vostra altezza. La regina invece intende recarsi alla Malmaison da sua madre. Ancora 2 bambini in casa. Forse abbiamo ancora in solaio dei giocattoli di Oscar. Dite a sua maestà che i ragazzi saranno ben custoditi in casa mia. Li metterò nella camera dell'ala flotte. Marcellina dormirà nello spogliatoio. E l'ala flotte nello stanzino di Yvette. Yvette, invece, giù al portone, Ortensia rimontava in carrozza. «Vive l'Empereur!» le gridò la folla. Poi la muraglia umana davanti alla mia casa si richiuse. Non sono più sola ad aspettare. Minacciosa, con me, aspetta la strada. Parigi, aprile 1814. Il 31 marzo le truppe alleate hanno fatto il loro ingresso a Parigi. I cosacchi passarono al galoppo attraverso gli Champs-Élysées lanciando in corsa delle voci inarticolate. I prussiani sfilarono in ordine perfetto portando tutte le aquile, gli stendardi e le bandiere prese ai francesi e intonando gli inni scritti dai poeti della loro guerra di liberazione. Uno di questi canti incominciava «Du Schwert! An meiner Linken, was soll dein heiteres Blinken? Schaust mich so freundlich an, hab meine Freude dran. Spada al mio fianco sinistro, che vuol dire il tuo lieto splendore? Così amabile tu mi riguardi e io mi rallegro in te. Gli austriaci invece entrarono a suon di musica e facevano segni alle ragazze che si sporgevano dalle finestre. Furono appostati dei cannoni davanti ai quartieri generali dei comandanti alleati per proteggerli dal furore dei parigini, ma i parigini non avevano certo tempo di vendicarsi contro il principe Schwarenberg o contro Blücher. Facevano la fila davanti alle botteghe dei fornai e mendicavano un sacchetto di farina dai negozianti. I granai dei dintorni di Parigi sono stati saccheggiati e poi incendiati dagli alleati. Le strade d'accesso alle province meridionali sono sbarrate, si soffre la fame. Il 1° aprile è stato costituito un governo provvisorio che tratta con le potenze alleate. Talleyrand ne è il capo. Lo zar è sceso a Palazzo Talleyrand. Talleyrand ha dato in suo onore una festa alla quale hanno partecipato i membri delle famiglie nobili cui Napoleone ha permesso di tornare in Francia. Lo champagne scorreva a fiumi e lo zar fece comparire come per incanto farina e carne e caviale. E gli invitati si saziarono. Napoleone si trovava con 5.000 uomini a Fontainebleau. La carrozza di Caulaincourt viaggia di continuo innanzi e indietro tra Parigi e Fontainebleau. Caulaincourt tratta con gli alleati a nome dell'imperatore. Gli alleati hanno messo innanzi come presidente del nuovo governo francese Talleyrand. Così sarà la Francia stessa a decidere. Il 4 aprile Napoleone ha sottoscritto la seguente dichiarazione di abdicazione. Poiché le potenze alleate hanno dichiarato che l'imperatore Napoleone rappresenta il solo ostacolo alla ricostituzione della pace europea, l'imperatore Napoleone, fedele al giuramento, si dichiara pronto a rinunciare al trono, a lasciare la Francia e anche a sacrificare la vita per il bene della patria, inseparabile dai diritti di suo figlio, dai diritti dell'imperatrice alla reggenza e dal mantenimento delle leggi dell'impero. Firmato Napoleone. 2 giorni dopo il Senato dichiarava che una reggenza di Napoleone II era da escludere. Non so dove tutti siano andati di colpo a prendere le bandiere bianche dei Borboni che pendono dalle finestre. Sudice e grigie sventolano nella pioggia d'aprile. Nessuno le strappa, nessuno le applaude. Il Moniteur scrive che soltanto la restaurazione dei Borboni potrà garantire una pace stabile. I poliziotti che tengono sgombre le strade per l'entrata di altre truppe alleate non portano più la coccarda bianco-rosso-azzurra, ma quella bianca che ha fatto spargere tanto sangue durante la Grande Rivoluzione. La maggior parte dei componenti della famiglia Bonaparte sono fuggiti da Rambouillet a Blois con l'imperatrice. L'imperatrice non riceve nessuno. È tra le braccia di Sua Maestà suo padre e lo prega tra i singhiozzi di proteggerla e di proteggere il suo bambino. Il suo bambino, di lei sola. L'imperatore d'Austria ha deliberato di dare al nipotino il nome di Franz. Quello di Napoleone non gli garba.